Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Sono io, nonna Cappuccetto Rosso, sono venuta a trovarti. Ciao nonnina, ti ho portato un piccolo regalo. Oh, santo cielo, che orecchie grandi hai, nonnina. Io non me ne ero mai accorta, sai. Ah, c'è una spiegazione, mia cara. Servono per sentirti meglio quando mi parli. E buongiorno a voi da Nicoletta. Non basta avere orecchie grandi per sentire bene. Il nostro udito, il modo in cui percepiamo i suoni, è condizionato da una serie di variabili, di cui fa parte anche la nostra postura, che condiziona il nostro ascolto e a sua volta ne è influenzata. Voi dove siete in questo momento? Soprattutto in quale posizione mi state ascoltando? Siete seduti, in macchina, in piedi, affaccendati, alla scrivania? Mi ascoltate in cuffie? Intanto, in linea con noi abbiamo la dottoressa Laura Bertelé, fisiatra, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa, direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo e autrice di Ascolta e guarisci il tuo corpo. Dottoressa Bertelé, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottoressa Bertelé, il dottor Tomatis, otorinolaringologo, goiatra francese, grande studioso dell'orecchio e dell'udito, diceva che noi percepiamo i suoni non solo attraverso le nostre orecchie per conduzione dell'aria, ma attraverso tutto il corpo, quindi anche le ossa, i muscoli e la pelle sono in ascolto. Sì, soprattutto la pelle, che è la zona che ci predispone di più alla ricezione delle vibrazioni. Oltre alle sensazioni tattili, la pelle ha soprattutto delle zone specifiche che sono predisposte alla percezione delle pressioni e le vibrazioni pressorie, e non a caso sono sulla parte anteriore del tronco, sulla parte volare, cioè anteriore delle braccia, e sulla parte interna delle gambe, che è poi la zona che noi apriamo quando facciamo meditazione, ad esempio, quando ci predisponiamo all'ascolto. Dottoressa Bertelé, quindi è questa parte del nostro corpo che ascolta? Sì, che ci predispone più adatta all'ascolto, in modo che noi ci accorgiamo se siamo in una posizione di ascolto proprio se apriamo questa zona verso l'altro. E l'altra cosa di cui dobbiamo tener conto, che è fondamentale, è la posizione della testa. Noi ascoltiamo se la testa è come se fosse tirata verso l'alto da un filo che ci unisce al cielo, al soffitto, dalla vertice, cioè dalla parte posteriore della testa, cioè della parte superiore della testa. Quindi, dottoressa Bertelé, ai miei ascoltatori dovrei dire, più che ascoltatemi, apritevi. Esatto. Apritevi, esatto. Perché alcune posizioni che assumiamo mentre ascoltiamo possono anche essere lette come il tentativo da parte del nostro corpo di farsi orecchio per sopperire ai iniziali disturbi d'udito. Dottoressa Bertelé, la posizione racconta molto anche del nostro modo di ascoltare. Assolutamente, ad esempio noi possiamo renderci conto se la persona che ci sta di fronte è disponibile al messaggio che noi stiamo inviando in base alla sua posizione. Per esempio, se la posizione della persona di fronte è con le braccia incrociate, le gambe accavallate, oppure ancora di più ci presenta parte della schiena, come purtroppo c'è in molti bambini autistici quando ci rivolgiamo a loro, vuol dire che c'è proprio un distacco fino al rifiuto della comunicazione. Sono venuta presto stamattina, così ho pensato di stirare un po' di camicie di Giulio. Ma che è sta musica a palla? Cosa? La musica, non dico, un po' più alta la potevi mettere. Ma come? Sei bassissima. Anzi, l'ho messa bassa proprio per non disturbarvi. Ma lo sai che sei proprio strana, Lucia? Lo sai che sei proprio sorda? Ma che dici? Farfugli, no, non si capisce niente. Guarda, oggi chiamo l'odorino, oggi chiamo il dottor Lagossi. Che stavi dicendo a proposito del dottor Molossi? Lagossi, è un otorino, ci devi andare urgentemente. Ma non ci penso neanche, io ci sento benissimo, non scherziamo. Perché? E come no, ci sente benissimo, la vecchia befana. Hai sentito? Lo dice anche Cesare. Se lo dice a Maritù, andiamo tutti a Malibu. Da quando è che ci diamo del tu noi due? Porto di là i cornetti. No, li rifacciamo dopo i letti. Noi il dottor Lagossi non l'abbiamo trovato, non l'abbiamo neanche cercato, ma abbiamo in linea il dottor Enrico Brenna, medico specialista in otorinolaringoiatria e audiologia. Dottor Brenna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Dottore, la postura del nostro corpo può metterci un po' la pulce nell'orecchio, farci intuire sì. La persona che è davanti a noi non vuole sentirci, oppure magari può anche dire, raccontarci che la persona che abbiamo davanti ha una certa difficoltà a sentirci. mentire. Il classico esempio, magari sono le persone che si mettono un po' di traverso per guardare e sentire la televisione, ma possiamo anche imparare a sentire e riconoscere i messaggi che ci mandano le nostre orecchie, che in alcuni casi si tappano, fischiano, sono infastidite da alcuni suoni, fanno fatica a riconoscerne altri. Quali sono i sintomi a cui prestare orecchie? Proviamo, dottor Brenna, a immaginare delle situazioni tipo. Sì, guardi, una delle situazioni classiche è quando tu parli con qualcuno e questo qualcuno gira la testa da una parte, non perché non ti voglia sentire, ma perché probabilmente una dei due orecchie funziona meglio dell'altra. Oppure un'altra situazione è quando c'è una persona di spalle, parte un rumore qualsiasi, dalla sirena alla voce normale, e venendo da una parte il paziente si gira la parte opposta. Questo significa che non ha un udito bidirezionale e di conseguenza molto probabilmente una delle due orecchie funziona meglio dell'altra. Per cui in quel caso è indispensabile fare dei controlli, primo tra tutti vabbè la visita specialistica, per evitare che ci siano dei problemi di tipo meccanico, quello più banale è il tappo di cerume. Dopodiché, una volta escluse determinate patologie che vanno dal tappo di cerume all'otite acuta, problemi di questo genere, che però peraltro il paziente teoricamente dovrebbe già indicare, si passa all'esame audiometrico, quindi all'audiometria e alla diagnostica, e poi si decide che tipo di patologia c'è, se c'è una patologia e se c'è una possibilità di ovviare questi problemi. Certo, intanto lei ci mette un po' la pulce nell'orecchio. Abbiamo detto alcune situazioni in cui possiamo avere il sospetto che il nostro udito non è in perfetta forma, tra cui ad esempio quella di aumentare il volume della radio, come abbiamo sentito dei nostri ciseroni. E quindi già quello, quando in famiglia uno litiga perché uno alza, l'altro abbassa, significa che qualcosa che non funziona c'è di sicuro. Dobbiamo andare a cercare il dottor Lagossi. Intanto, intanto volevo salutare la dottoressa Laura Bertelé. Dottoressa Bertelé, ci sono anche delle situazioni in cui il nostro corpo in qualche modo ci aiuta a non sentire? Sì, ad esempio appunto quando non abbiamo voglia di sentire ci possiamo chiudere noi stessi. Possiamo tirare la testa in su come se la persona bevesse dall'alto, quella che noi chiamiamo la posizione biberon, oppure anche stringere le mandibole. Anche un apparente sorriso a volte nasconde un non desiderio di sentire, perché è proprio una modalità per chiudere un po' le orecchie, l'orecchio medio, e sono dei segni che ci dovrebbero dire che la persona non ha voglia di sentire. Meglio cambiare aria. Esatto. Dottoressa Bertelé, io la ringrazio, mi raccomando, non alzi il mento, che suona come rizzi le orecchie, continua ad ascoltarci. Buona giornata a voi. Arrivederci. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Cosa sei? Non cambi mai, proprio mai. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Già che ci sei, che ci sei. Caramelle, non ne voglio più. Le rose violini, questa sera raccontali un'altra. Violine rose li posso sentire. Quando una cosa mi va, se mi va, se mi va. Quando è il momento e dopo si vedrà. Se possiamo spegnere la voce degli altri, non possiamo fare a meno di sentire la nostra. Imparare a farlo può aiutarci. Noi ci mettiamo alla prova con gli alti e bassi, li state ascoltando, il gruppo a cappella che ci ha accompagnato nelle puntate di Mangia con me. Sono qui in studio Andrea Gambetti e Filippo Tucimei, un alto e un basso. Benvenuti. Eccoci, ciao Nicoletta, benvenuti. Ciao Nicoletta, ciao a tutti gli ascoltatori. Voi due siete gli estremi. Ebbene sì, io sono l'alto, la voce più acuta del gruppo. E io sono il basso, la voce estrema più grave o bassa, diciamo, del gruppo. Chissà perché poi uno usa la voce alta o la voce bassa, Filippo? Potrebbe dipendere da caratteristiche fisiologiche, quali appunto le dimensioni della laringe, la lunghezza delle corde vocali, dei risuonatori, eccetera, eccetera, ma sicuramente, visto che abbiamo parlato di Tomatis durante la puntata, Tomatis potrebbe dire anche che il nostro orecchio magari preme più verso un estremo che verso l'altro, magari vuole ascoltare più volentieri la zona acuta, gli armonici delle note acute o gli armonici delle note gravi, chissà. Chissà. E quindi di conseguenza uno canta o parla con una voce più acuta. Tra l'altro la nostra voce non ci piace mai e quando l'ascoltiamo la troviamo molto diversa. Perché? Voi sapete darmi una spiegazione? Perché risuona all'interno della cavità cranica e quindi noi ascoltiamo anche con l'orecchio interno. Dimmi Filippo se sto dicendo... Sì, il cosiddetto, sempre stando automatisti, il cosiddetto orecchio osseo, cioè quello che si trasmette per via ossea, diciamo dalla cavità orale fino all'interno dell'orecchio. E naturalmente questo è molto diverso anche a seconda della posizione della lingua, per esempio come riflette le onde sonore, tutto quanto. È molto diverso da quello che poi noi sentiamo a volte con grande delusione, non so, da una registrazione del nostro parlato, del nostro cantato, che a noi sembra, non so, più povero o diverso comunque rispetto a quello che a noi sembrava di emettere. È tutto un problema di ascolto. Abbiamo in linea con noi Cristina, dalla provincia di Alessandria. Buongiorno Cristina e benvenuta. Buongiorno, grazie. Io volevo fare una domanda al dottore, nel senso che mio marito sembra avere un problema, nel senso che quando si trova in posti affollati come fiere oppure cene con amici, non riesce a distinguere la parola nel dettaglio che gli viene detta rispetto al rumore di fondo. Ha già fatto una visita, sembra tutto a posto, però il problema rimane. Grazie Cristina. Dottor Brenna, quando siamo in un ambiente, in un rumoroso, in una conversazione, ci sono delle persone che fanno fatica a capire esattamente con precisione le parole? Ma dunque, solitamente, abitualmente, per l'esperienza che abbiamo avuto, è che quando ci sono questi problemi significa che molto probabilmente, ma non sempre come capita alla signora, c'è un'ipoacusia zonale sulle frequenze acute. Cioè, detto in parole semplici, la voce acuta del vostro fantastico cantante fa più fatica a sentirla, oppure le voci delle donne scappano più facilmente, oppure ancora se vai in uno spazio con un'acustica sfavorevole e con tanta gente che fa rumore, con dei rumori di fondo particolarmente importanti, tipo ristoranti, bicchieri, piatti, piattini, eccetera, scappano le parole. Oppure se c'è tanta gente che urla, parla a voce alta, non si capisce un tubo. Ecco, in parole molto semplici, ma che rendono efficace, perché ci sono questi suoni acuti che sfuggono. Sì, sfuggono, perché sembra che ci siano in determinate zone del giro basale della chiocciola, e dove ci sono queste cellule neurosensoriali, che sono quelle più esposte, perché sono quelle più verso l'orecchio medio, maggiore facilità di lesione. Ad esempio, nei pazienti che hanno sempre lavorato o frequentato ambienti particolarmente rumorosi, le frequenze che ne risentono di più, cioè quelle più sofferenti, sono proprio quelle acute, e di conseguenza quando ci sono tutti questi ambienti poco favorevoli il paziente si trova a disagio, così come la televisione peraltro. Certo, parliamo di ascolto e cerchiamo di capire come ascoltiamo, quanto è affinato il nostro ascolto. Lo facciamo con due coach d'eccezione, i due estremi degli alti e bassi, un alto e un basso. Filippo, noi tra l'altro viviamo sempre immersi nel rumore, non voglio qui aprire il problema dell'inquinamento acustico, però è sicuramente un problema con cui dobbiamo fare i conti, lo stanno facendo anche i nostri bambini. Certo, i nostri bambini spesso li vediamo esposti magari davanti a casse di decine di migliaia di watt a qualche concerto, magari di qualche cantante che i genitori amano e al quale portano anche i bambini, oppure al cinema, dove ormai io non riesco quasi più a entrare perché devo entrare con le orecchie tappate, mentre invece tutti sembrano essere a proprio agio. Insomma, ci sono dei volumi da un po' dappertutto a cui i bambini forse sono troppo esposti e man mano il loro udito naturalmente si deve adattare e perdere un po', abbassare un po', alzare un po' la soglia, direi, del... Quindi può essere anche lo chiedo anche al dottor Brenna, persone che parlano, dato che noi oggi stressiamo molto la relazione che c'è tra come ascoltiamo e come parliamo, perché Tomatis diceva appunto che noi emettiamo i suoni che sappiamo riconoscere, che sappiamo ascoltare. Persone che parlano ad alta voce, no? Con la voce, sì. come si può dire, con un tono di voce alto, sono delle persone che hanno un udito un po'... lasciatemi usare questo termine che non è preciso, ma addormentato, disturbato? Può succedere, dottor Brenna. Perché ci sono... Intanto io ho un usito fin perché sento che lei ha un cane vicino che abbaia. Che è un Jack Russell di 2 anni che si sente, no, meno, e abbaia sempre, per cui io lo sento, ormai sono abituato. se devo isolarmi un attimo quando... Le consiglio di andare sul sito di Angelo Vaira, grande amico anche di Essere Benessere, in cui troverà delle indicazioni che servono anche per lei. Quindi il nostro udito, il tono della nostra voce ci dice tante volte, io vorrei arrivare a un esercizio, a misurare quanto noi siamo capaci ad ascoltare, con un esercizio suggerito proprio dei nostri alti e bassi. Volentieri, volentieri. Proviamo. Per esempio, una cosa che una volta sembrava banale, ma adesso si incontrano veramente persone che hanno delle difficoltà, cominciano ad avere difficoltà di fronte a questa domanda. Per esempio, distinguere se di due suoni quale sia il più alto, quale sia il più basso. Adesso io con la mia stessa voce, con la stessa vocale, emetterò due A a due frequenze diverse e vorremmo sapere magari se il pubblico riconosce se la prima o la seconda era la più alta, la più acuta delle due. Oppure il contrario. La prima, la seconda, Allora, il problema può anche diventare un pochino più raffinato il quesito, perché con gli alti e bassi abbiamo pensato di misurare il vostro ascolto e di farlo complicandomi un po' la vita. Sì. Andrea, vedo diciamo che si entra in un altro profilo, che è proprio quello della percezione, cioè si può aiutare l'ascolto e quindi l'orecchio musicale, ma anche non musicale, quando ci riferiamo appunto al parlato, all'attenzione, lavorando sulla percezione. Quindi adesso Filippo ha fatto un esperimento sulla melodia, volendo si può fare un analogo esperimento lavorando sulla armonia, cioè adesso io e Filippo potremmo emettere due suoni contemporaneamente, e un esercizio che possono fare gli ascoltatori è cercare quello di identificare i due suoni, quali siano i due suoni che compongono questo bicordo. Proviamo. Sì. Volevo solo specificare, per dare tempo ancora agli ascoltatori del primo quesito, che appunto noi abbiamo citato due parole, melodia e armonia. Per chi non fosse dentro un po', diciamo, il ramo musicale, melodia sono dei suoni che appaiono successivamente uno dopo l'altro, e armonia invece si intendono più suoni che vengono emessi simultaneamente. Quindi più difficile. Ecco. Ecco. Siete pronti voi, sì, alti e bassi? Filippo e Andrea, io sto zitta, vai! Ecco. Dirci se si è riusciti a identificare i due suoni, cioè a ricantare le due note che abbiamo cantato separatamente. Quindi oggi li facciamo ascoltare, perché, e di questo parleremo tra poco, non esistono persone stonate, esistono persone, mi sto allargando troppo, esistono persone che non sanno ascoltare. Voi invece dovreste essere è vero, intonatissimi, assolutamente vero, perché ascoltate Radio 24 ed Essere Benessere, voilà. Tra l'altro noi con gli alti e bassi abbiamo pensato di darvi degli esercizi, dei compiti da fare a casa. Non ve li diamo, ci siamo ispirati al professore, ma naturalmente che cosa succederà? In chiusura di trasmissione rapirò gli alti e bassi, mi metto in uno studio, registro gli esercizi per voi, che potete andare a sentire, ad ascoltare sul nostro sito. Vi sto spingendo alla pagina di Essere Benessere in tutti i modi, perché e voglio che voi abbiate la possibilità di navigare, di trovare tutte le informazioni utili, e lì trovate degli esercizi che gli alti e bassi suggeriscono per voi, che farà anche il nostro dottor Brenna. Che dice, dottore? Io sono un disastro, non può fare queste cose. No, ma guardi, un quando po' di esercizi. Qualche cantatina sotto la doccia, si blocca l'acqua della doccia. Ecco, perché lei ascolta male, dottor Brenna? Perché ci sono anche un po' sordo, Ecco, vede che è classico. E allora io dico agli uomini all'ascolto, per il vostro udito, mangiate la foglia, ma che sia verde. Ce lo spiega il dottor Attilio Speciani, che è tornato a trovarci. Buongiorno. Buongiorno, che bello sentirvi. Vede, dottor Speciani, foglia verde per gli uomini all'ascolto, per proteggere il loro udito. Sì, è una bellissima, è uscita anche adesso, proprio in questi giorni, una ricerca dell'American Academy of Otolaryngology, fondamentalmente gli otorini americani, che dicono che l'acido folico è fondamentale, è importante, non solo per le donne in gravidanza, che questo più o meno adesso tutti abbiamo capito, ma anche per tenere d'occhio l'orecchio, carino lo tenere d'occhio l'orecchio, no, per preservare l'orecchio, sì, e consentire all'udito di funzionare al meglio. Ecco, mi piace, al di là del fatto che spesso quando ci sono carenze vitaminiche o minerali questa cosa avviene, mi piace anche pensare che l'acido folico sia quella vitamina. Intanto dove la troviamo? Che la troviamo nei legumi, nelle foglie verdi, giustamente da qui la battuta di Nicoletta sul mangiare la foglia verde, no? Quindi ottimi elementi, nelle arance piuttosto che in altre sostanze. Però la cosa fondamentale è che l'acido folico, essendo una vitamina del gruppo B, sparisce con lo stress. Allora mi nasce la domanda: se è vero che la carenza di acido folico fa sentire meno, potrebbe essere che le persone stressate, che iniziano a dire basta, non ne posso più di sentire tutte le cose terribili che accadono intorno, inizino, come dire, a creare una sorta di limitazione, sia un'autolimitazione spontanea, no? In un certo senso. Invece, siccome ci sono delle cose belle, stamattina ero a correre presto, sembrava di essere nei boschi, è stato fantastico, per cui anche l'udito delle piccole cose, secondo me, merita e va salvaguardato. Assolutamente, perché i primi a perdere, che i suoni che per primi si perdono sono quelli della natura, veri frusci, il canto degli uccelli. Andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, poi il meteo, ma prima, come sempre, vi ricordo il nostro Daily Lab. Dove lo trovate? Ma sul sito di Radio 24. A tra poco. Essere e benessere. Dottor Speciani. Siamo ancora qui. Siamo ancora qua e parliamo di? Di magnesio. A questo punto parliamo di magnesio, che è uno degli elementi fondamentali per far funzionare la superficie delle cellule, i contatti e le relazioni. Potrebbe essere usato nei matrimoni, no? Per dire, quindi va bene. Però no, a parte questa battuta, il magnesio è fondamentale proprio perché consente di gestire delle reazioni fini, dei rapporti tra le cellule estremamente importanti. Quando noi ascoltiamo, percepiamo, soprattutto i frusci o i suoni delicati, ecco che diventa importante. Quindi abbiamo noci, nocciole, i vari semi oleosi, che però ci piace dirlo, molto. Il cacao, dai! Il cacao è una delle sostanze più ricche di magnesio che ci sia, infatti molti che si mangiano poi il cioccolato dicono perché ero in fase premestruale, perché mi mancava il magnesio, sono scuse, sì. però è vero che il cacao lo porta, quindi ad esempio un cacao noir come quello che piace a me, con l'avviso ai naviganti, cacao nero con dentro le mandorle e nocciole è fantastico, una direi bomba. Che è un tocca sana per l'udito, fantastico. Sicuramente importante, basta non esagerare. E un'altra cosa che mi piace segnalare è l'effetto dell'alcol, sì. No? Nel senso che quando si beve un po' di alcol, l'effetto strano è che dentro nella coclea, nelle strutture fini dell'udito, c'è un liquidino in cui ci sono, quelli che hanno provato ad avere le vertigini sanno, sì. Che sono dei picci di sassolini, si chiamano otoliti. Ecco, quando noi modifichiamo l'alcol, modifica un po' questa concentrazione, quindi gli otoliti iniziano a galleggiare, dandoci un po' questo senso di vaghezza, di stranezza. Lì è il senso della capacità di controllo, quel minimo di giusto che fa bene anche alla salute, che può essere positivo e che mantiene quel senso di, come dire, di vaga sensazione, di percezione, di distacco un po' dalla realtà, che non deve superare poi i limiti per cui uno si sveglia con un hangover al mattino pazzesco, con una serie di sbronze mostruose, oppure guida in condizioni assolute. Quindi devo dire che un buon bicchiere di vino con un cioccolato nero con le nocciole, anche se da nutrizionista poi non è il caso che lo dica, però ogni tanto fa bene, ecco. E mi piace dirlo a tutti. Qui lo dica, qui lo nego, voi che avete ascoltato e fatene tesoro. Grazie al dottor Speciani per essere stato con noi. Buona giornata. A voi tutti e a presto. Invece, dato che noi cerchiamo di allenare il nostro udito per emettere, no? Delle sonorità più pulite, parlare anche meglio, non avere dei toni monotoni, sì. Allora vi abbiamo suggerito due esercizi, vogliamo sondare un po' la vostra capacità a riconoscere. Sentiamo il primo, che è stato suggerito da Filippo, che degli alti e bassi mi sembra il più bravo. Andiamo. La prima? La seconda. La richiesta, Filippo, era quella di riconoscere quale dei due fosse il più grave e quello più acuto, se il primo o il secondo. Perché è importante riconoscere i toni? Che cosa ci porta di buono? Questo è il presupposto, diciamo, per il cosiddetto orecchio musicale. Cioè distinguere almeno se una melodia sta salendo, se una melodia sta scendendo. E questo, diciamo, che ho emesso io è, nella nostra musica occidentale, un po' l'intervallo minimo di differenza tra due suoni, cioè il semitono. E quindi insomma è la distanza minima, e quindi se un orecchio riesce a distinguere già questi due suoni e capire qual è più grave, qual è più acuto, e la differenza è minima, e quindi vuol dire che già insomma avete siamo orecchio. Già a buon punto. Poi avete anche un orecchio verde se ascoltate Essere Benessere. Andiamo invece Andrea, che è qua più di casa, ha voluto fare un po' le cose un pochino più difficili, e infatti che cosa avete fatto? Avete sono mescolato due suoni, le carte. Esatto, sono due suoni riprodotti simultaneamente, ed è un esercizio molto utile per la propria percezione del proprio orecchio, quello di cercare di identificare le due singole note e riuscire a ricantarle separatamente. Gianfranco ci chiama da Rimini e dalla regia mi dicono che ha forse una risposta. Gianfranco? Sì, pronto. Buongiorno a lei, grazie. Buongiorno, telefono qui da Rimini. Il primo quesito, dunque, la seconda è più bassa e secondo me non è un semitono, è un tono. Lo glielo dico perché suonavo il basso quando ero ragazzo e anche se adesso soffro di acufeni, però sicuramente il secondo era più basso, ecco. Era un semitono un po' abbondante, ma comunque è un po' grassotto, sì. Era un po' grosso, era, diciamo, era più verso il tono. Di 5-6 commi. Volevo chiedere al dottore, approfitto, io soffro di un acufene. Ahimè, come se andava a suonare in giro con gli amplificatori anche abbastanza, abbastanza, diciamo, sul palco, abbastanza forti. Sì. E in più ho ascoltato molta musica rock con le cuffie, con quelle vecchie COS, con quelle vecchie cuffie che sparavano abbastanza. Insomma, non ha risparmiato nulla le sue orecchie. Non mi sono fatto mancare niente. Bravo. Però mi consolo perché Phil Collins è praticamente da un orecchio quasi sordo, però ancora canta. Però, e voglio dire, e come canta? Dottor Brenda, allora Gianfranco le ha fatte di tutte? Il professore non si è fatto mancare veramente niente, perché solitamente gli esiti di esposizioni a rumori o a musica, per amor di Dio, che non è rumore peraltro, troppo prolungate e a intensità particolarmente elevate possono provocare questa sofferenza del cervello ciliato e dell'orecchio interno, dove c'è il passaggio tra energia meccanica e energia elettrica. Questi ne risentono e sembra che producano queste allucinazioni uditive, cioè suoni, fischi, rumori, cinguetti strani, che in realtà non... Ruscelletti. Esistono. Esatto, è tutto. Il frigorifero, la signora che si alza di notte per vedere se c'è l'acqua che scorre, e in effetti non c'è niente, ma è proprio l'orecchio che funziona in maniera un po' bizzarra. Il problema grave, grosso, non grave, perché si presume siano in questi casi soltanto dei fenomeni locali, quindi a livello cocleare. È importante la terapia, che in pratica di certezze non ne dà. Sì. Quindi solitamente si usano dei vasodilatatori del microcircolo, che servono ad aumentare la portata di sangue e di conseguenza anche l'ossigeno che viene portato attraverso i globuli rossi, e si presume, sempre in presunzione, che questo possa alleviare comunque questo problema. Ecco, e io vi ricordo che agli acufeni, a questi ronzii, ruscelli che si avvertono dentro le orecchie, eccetera, abbiamo dedicato delle puntate che trovate sempre nell'archivio di Essere Benessere. Filippo, allora, il nostro professore ha detto la cosa, ha risposto giusto. Professore, la salutiamo. Gli alti e bassi hanno portato qua per lei un CD e noi volentieri glielo mandiamo a casa, perché io mi faccio sempre dare qualche cosa dei miei ospiti per voi. Grazie al professore. E noi andiamo a Stefano, che ci chiama da Milano. Buongiorno Stefano, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie Stefano. A questo punto, visto che al primo quesito già è stato risposto, rispondo al secondo. Ma perché lei tutte e due era bravissimo, sì. Stefano, allora vai al secondo, che mi sembra difficile, io non lo saprei. Allora Stefano, vada, ci provo. Dunque sono senz'altro due note diverse. Il secondo si trattava, consisteva nel riprodurre successivamente le due note che io e Andrea abbiamo emesso simultaneamente. Le due note erano un La grave, il mio, e un Do diesis acuto, quello di Andrea, a distanza quindi di una decima, parlando musicalmente, e quindi non corrispondono né come intonazione né come intervallo alle due note che ho sentito adesso. Se invece questa voleva essere la riproduzione del mio primo esercizio, cioè quello delle due A, Sono effettivamente una più acuta e l'altra più grave, però la distanza è maggiore di quella che ho fatto io nel primo esercizio. Però devo dire che Stefano è stato bravo. Sì. Che io un altro CD ai, assolutamente. Ai... Stefano, lei non si preoccupi, senz'altro. Perché loro non escono di qua senza mollarmi un altro CD, perché Stefano si è buttato, se lo è meritato, se lo è meritatissimo. E poi secondo me Stefano ha orecchio. Massimo, buongiorno da Livorno, benvenuto, mi dica tutto. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Dunque, Massimo. Io da piccolino ho sempre detto che avevo un grande orecchio per la musica. Sì. Ho voluto seguire questo consiglio ed effettivamente poi sono diventato un musicista. Sì, bravo. Da tantissimi anni che da mai esercito. Ora volevo fare una domanda al professore, volevo sapere, ma questo benedetto orecchio per la musica, come si sente dire spesso e volentieri, volevo sapere a cosa è dovuto? È un dono naturale. È un dono naturale, secondo l'Otorino. Sentiamo Andrea. Secondo me entrambe le cose, cioè è sicuramente un dono naturale, ma è anche una questione di educazione. Prima si diceva non esiste lo stonato in assoluto, esiste una persona educata ed è molto importante educare l'orecchio fin da bambini. Io per esempio al mio piccolino Jacopo, a 4 anni e mezzo, fin da bambino l'ho abituato ad ascoltare i suoni, quindi l'ascolto è direttamente correlato. Quindi non so, una sirena gli riproduco lo stesso identico suono, un clacson glielo ricanto, una musica sentita in radio gliela faccio risentire. Bisogna avere un papà che fa parte degli alti e bassi, perché io non saprei riprodurre la sirena, però insomma l'indicazione tua è molto... Ma anche senza essere musicisti, Nicoletta, anche senza essere musicisti è importante proprio avvicinare all'ascolto, anche per anche qualunque cosa si possa ascoltare, è importante avvicinare i bambini, e piano piano la musica è una sorta di linguaggio e quindi ci si può sicuramente educare fin dall'inizio. Ed è quello che vogliamo fare noi anche con gli esercizi che daremo, e invitare i nostri ascoltatori in questo mondo, no, così rumoroso, a diventare degustatori del suono. È importantissimo. Certo. Questo ha delle ripercussioni anche sul nostro benessere, ad esempio anche sulla nostra voce, perché riusciamo, riconoscendo i vari suoni, ad avere una voce più gradevole. Filippo, che dici? Senz'altro, la sensazione di voce gradevole pare che sia dovuta a un particolare miscuglio di armonici che vengono generati dal suono fondamentale della nostra voce, perché naturalmente unito a un suono fondamentale, che è quello noi diciamo che scriviamo sul rigo musicale, o è quello che noi sentiamo di più, ne vengono generati insieme degli altri che si chiamano armonici, che fanno parte che generano il cosiddetto timbro, per cui noi possiamo distinguere la nostra voce da quella di un'altra persona, una vocale rispetto a un'altra vocale, un violino rispetto a un aeroplano, e questo timbro pare che a volte possa essere più sgradevole in base a certi armonici che si formano, oppure più gradevole perché gli armonici sono più gradevoli, e comunque il nostro ascolto deve portarci a vivere, diciamo, con le orecchie più aperte quando vogliamo ascoltare qualche cosa, e anche direi forse nel mondo di oggi un po' più chiuse quando siamo invasi dal rumore che non vogliamo, o dalla musica che non vogliamo ascoltare. Quindi diventiamo selettivi. Che dici, Andrea? Sì, sicuramente, senz'altro. E soprattutto proviamo a cantare, Sì, possiamo farlo tutti, non certo. Ci sono persone non stonate. Non ci si deve tirare indietro. Tutti abbiamo le corde vocali, è uno strumento direi più comune del mondo. Proverò anche ad esercitare le mie corde vocali. Grazie per essere stati con noi, adesso Traffico, poi di nuovo qui. Mi raccomando, io vi aspetto. Essere e benessere. Voi conoscete il germe di grano? È una parte del chicco che viene persa durante il processo di raffinazione, ma che noi oggi vogliamo recuperare per imparare a conoscere le virtù e capire quanto possa essere utile per la nostra dieta quotidiana. Ne parliamo col dottor Marco Temporin, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medica di Altavilla Vicentina. Buongiorno dottor Temporin, bentornato. Buongiorno Nicoletta. Il germe di grano deriva dall'embrione della parte del grano e può essere ricavato sia dalla radice che dal germoglio. Queste piccole scaglie, che si trovano in vendita nei negozi di alimentazione naturale, sono utilissime come integratore, soprattutto anche in questa stagione. Il fatto di questa possibilità che ci viene data dal germe di grano è determinata dalla sua concentrazione di vitamina E, in quanto questo cereale ne è ricchissimo. Quindi un alimento che è un integratore naturale è ricco di questa vitamina E, che vuol dire che è una vitamina amica di? Vabbè, la vitamina E è un po' un'amica di tutti, è una vitamina liposolubile e può essere utile sia per i giovani, per chi fa molta attività fisica e sport, ma soprattutto per gli anziani, in quanto la vitamina E aiuta le persone a prevenire i problemi cardiovascolari. Diciamo che, vista la stagione, è molto utile soprattutto il suo effetto antiossidante, che si esplica nella pelle e nei capelli. Ci insegni un po' a utilizzarlo. Abbiamo detto che si può acquistare nei prodotti, nei negozi di prodotti naturali, e come si consuma, in che quantità, per quanto tempo? Sì, c'è da dire che è un prodotto assolutamente economico, si trova in queste forme, in queste scagliette, e può essere utilizzato una o due cucchiai sia al mattino nello yogurt con altri cereali, oppure a pranzo, nella cena, in insalate, nelle minestre o nelle zuppe, addirittura, soprattutto anche per chi può aver problemi con colesterolo o altro, può essere utilizzato qualche cucchiaio al posto del grana, avendo quindi un'integrazione di vitamina E senza eccedere con il colesterolo. Perché è anche saporito, dottor Temporin? Nella pasta io l'ho provato, aggiungo un po' d'olio, un po' di prezzemolo, qualche aroma e un cucchiaio di germe di grano, è una pasta eccezionale. Dottor Temporin, la saluto e la ringrazio, buona giornata. Arrivederci Nicoletta. Con lui ci addormentiamo, passiamo la notte intera, ma non sempre al risveglio ci alziamo soddisfatti. Non pensate male, non sto parlando del nostro compagno, almeno per questa volta, ma del nostro cuscino. Lo tiriamo spesso in ballo per lamentarcene, sicuramente su di lui qualche dubbio ce lo abbiamo avuto tutti, ad esempio: sarà quello giusto per me? Sarà troppo alto, troppo basso, morbido, troppo duro? Allora, in linea con noi abbiamo il professor Palombini, reumatologo e docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, all'ospedale Sant'Andrea, che ci darà tanti consigli e scioglierà i nostri dubbi. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, la scelta del cucino è personale o invece ci sono delle regole, delle indicazioni che possono aiutarci a trovare quello giusto per noi? Diciamo l'uno e l'altro, nel senso che il cucino è sicuramente personale, perché non tutti siamo uguali, chiaramente, nessuno è uguale all'altro, quindi avremo delle spalle più grandi, più piccole, dei colli più grossi, delle teste che hanno, sono sporgenti in avanti, che sono più, il collo più verticalizzato, quindi una situazione, diciamo, strutturale, corporea, diversa da persona a persona, quindi bisogna fare un adattamento. Certo che ci sono un pochino delle regole fondamentali per dormire bene. Io credo che la regola più importante da considerare è che per dormire tranquilli bisogna, questo va detto, il mento deve essere sempre leggermente rivolto verso lo sterno, mai il mento rivolto verso il soffitto. Questo eccita il sistema nervoso, cambia proprio la respirazione e può creare dei problemi di insonnia più spesso piuttosto seri, piuttosto antipatici. Quindi noi appoggiamo la testa sul cuscino e dobbiamo vedere se il mento va verso lo sterno. Allora, la posizione migliore per l'addormentamento, io lo consiglio a tutti i nostri amici, è quello di mettersi sul fianco, di solito sul fianco destro, in modo, come si dice, a non affaticare la circolazione, la grande circolazione più a sinistra, quindi mettersi sul fianco destro con le gambe flesse, soprattutto la gamba sinistra flessa e la gamba destra allungata. Questa è la posizione ideale per dormire, non è un caso che molti trattamenti terapeutici iniziano proprio in questa posizione, proprio per rilassare il corpo, perlomeno indurre l'addormentamento. In questa posizione il cuscino è importantissimo, perché se la testa è troppo reclinata verso il basso, noi creiamo tutta una situazione anatomica che può creare delle contratture muscolari sui muscoli del collo, sul trapezio. Quindi bisogna fare in modo che la testa non vada troppo verso il basso, diciamo che sia un po' parallela al letto, in linea con la colonna vertebrale. Quindi un uomo con le spalle molto grandi dovrà avere un cuscino sicuramente più grande di una donna, faccio un esempio, con spalle molto più piccole. Quindi l'altezza del cuscino è relativa, professor Palombini? Assolutamente relativa e personale, non c'è un cuscino più migliore dell'altro. Diciamo che forse i cuscini sono migliori l'uno dall'altro per la densità e il tipo di materiale. Oggi ci sono dei materiali, per una volta si usava, no? Il cuscino di piume, il cuscino di crine. Oggi sono materiali che noi chiamiamo più accoglienti, nel senso che modellano il peso della testa e addirittura sembra che abbiano, ci sono degli studi dove si vede anche un'azione a livello della circolazione, a livello della pressione sanguigna, quindi normalizzano la pressione sanguigna. Uno studio fatto anche dai nordamericani a riguardo, importante. Professor Palombini, una risposta per Anna che ci scrive: amo dormire con due cuscini, è corretto? Ma oddio, la risposta è: se dorme bene, che si sveglia bene, vuol dire che ha trovato il suo modo di dormire. Tutti noi dobbiamo trovare un po' il nostro modo di dormire. L'importante è che ci si svegli freschi, pronti per reagire alla giornata, perché se ci si alza con il mal di testa, con il mal di collo, con i dolori sulla colonna vertebrale, allora vuol dire che qualcosa non va. Non esiste una regola d'oro, diciamo così, non esiste. Professore, lei faceva riferimento a tutti quei piccoli problemi che a volte avvertiamo proprio quando ci alziamo al mattino, tanto che riteniamo che la responsabilità sia del cuscino, che magari va cambiato. Ma allora, dato che con lei abbiamo fatto dei magnifici esercizi di shiatsu, ce ne consiglia uno per rimettere il collo a posto quando allora, ci alziamo un po'? In posizione supina, per intenderci pancia su, sì? Sul proprio cuscino, così siamo abituati a quello che abbiamo sotto la testa, si fanno delle belle respirazioni, 2-3 respirazioni, poi si mette la mano sinistra proprio sopra la spalla destra, sì? Per quello che si può fare, e la testa gira dal lato opposto. Noi vedremo che il muscolo trapezio di destra, quello che stiamo spingendo con la mano, si contrae per il movimento che fa la testa, e mentre giriamo la testa dobbiamo spingere con forza. Quando io dico con forza, deve essere sempre una sensazione mai troppo dolorosa, naturalmente. Quel dolore piacevole. Come? Quel dolore piacevole. Brava, esatto. Ho imparato. Un dolore piacere, quella lì è tutto, è proprio la chiave del successo. Riuscire a ottenere questo dolore piacere, nel frattempo la testa streccia, scusate la parola, fa proprio uno stretching del trapezio, che è un muscolo molto importante che si attacca anche sulla testa, e questa sensazione simultanea di pressione e di allungamento della fibra muscolare è fatto prima con la mano sinistra sulla spalla destra girando dalla parte opposta, poi con la mano destra sulla spalla sinistra, girando sempre dalla parte opposta, proprio per stretchare il muscolo. Lo facciamo 5-6 volte. Io credo che questo può sicuramente aiutare tutti i nostri amici a un buon risveglio. Professor Palombini, la ringrazio per essere stato con noi. Proveremo questi esercizi, le faremo sapere. Grazie. Grazie a voi. Buona giornata. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente, nel caso consultare il medico. L'avrete sicuramente letto nelle avvertenze e istruzioni per l'uso di molti detersivi, e tutti noi, è logico, no? Prestiamo molta attenzione nel maneggiarli e ricordiamo sempre di tenerli fuori dalla portata dei bambini, ma come si dice, un piccolo incidente, una svista, insomma, per qualsiasi ragione un piccolo incidente può capitare. Ed ecco la goccia di detersivo che ci finisce nell'occhio, un grande bruciore e anche una grande paura. Allora, non facciamoci prendere dal panico, cerchiamo di memorizzare le indicazioni che ci dà oggi il nostro ospite, il professor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica prima Fate Bene Fratelli di Milano. Professor Scialdone, benvenuto. Buongiorno a lei. Professore, iniziamo con lei. In questa settimana noi vogliamo raccogliere, anche per scaramanzia, per non doverli mai usare, degli consigli dei nostri esperti di pronto soccorso. Abbiamo iniziato con gli occhi, perché il detersivo, una goccia di detersivo nell'occhio, è un classico. non solo è un classico, ma diventa sempre più difficile e anche un po' più critico, perché i detersivi stanno diventando sempre più efficaci e con questo sempre più acidi, sempre più aggressivi nei confronti anche dei tessuti, non solo dei piatti e stoviglie. E quindi quando dovesse capitare una cosa del genere, detersivi per stoviglie o detersivi per le lavatrici, sciacquarsi, come diceva lei, nella entrata abbondantemente con acqua, meglio addirittura la doccia, il telefono della vasca da bagno aperto che schizza nell'occhio per qualche minuto, e poi fare rapidamente una soluzione di un mezzo cucchiaio di bicarbonato, quello da cucina, in acqua tiepida del rubinetto, sciogliere bene e schizzarsi acqua e bicarbonato nell'occhio, perché tampona gli acidi e rende meno probabile dei danni di superficie. Professor Cialdone, quindi sciacquare abbondantemente, interessante anche il consiglio dell'acqua tiepida con bicarbonato, ma l'occhio rimane rosso, dobbiamo preoccuparci, è questo che ci deve spingere ad andare al pronto soccorso o all'oculista, o ci sono altri segnali che ci devono far capire che la situazione è un pochino più grave del previsto e quindi che lo sciacquo con acqua tiepida o acqua bicarbonato non è sufficiente? Sicuramente le due cose da osservare sono in quanto è annebbiata la vista e in quanto tempo si comincia ad attenuare il dolore. Se il dolore è sicuramente un po' violento immediatamente, ma nel giro di una decina di minuti dopo gli sciacqui comincia ad andare un po' meglio, siamo un po' più tranquilli. Se la vista rimane offuscata per più di un'oretta e mezzo e il dolore continua, è meglio farsi vedere in un pronto soccorso, perché può darsi che ci siano delle lesioni, magari non gravi, in superficie, ma che se trascurate magari guariscono in 3 giorni invece che in 24 ore, e questo è inutilmente spiacevole. Professor Cialdone, la ringraziamo molto per essere stato con noi, speriamo di non avere mai bisogno dei suoi consigli, ma meglio saperli. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. E per oggi è tutto, un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.